Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto proprio per noi. Ogni domenica in queste storiacce la cronaca la ascolterete dalla voce e dalla penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. Bologna, 12 giugno 1983. Il delitto del Dams. 47 pugnalate uccidono Francesca Alinovi. Bologna la grassa, Bologna la dotta, Bologna è la casa chiusa di Via delle Oche, dove un tempo si poteva comprare un po' di amore, a basso costo. Bologna è i roghi dell'Inquisizione sul sagrato di San Domenico. Bologna è le prostitute, strangolate, tra Via del Pratello e Via Michelino. Bologna e i suoi loghi oscuri. Bologna paranoica, chiedi a 77 se non sai come si fa. Io lo conoscevo 77 e ci giurerei che ancora da qualche parte. Speed, play jean, eroina. Bologna e le sue lapidi murate sulle facciate dei palazzi. Lo russo che mormora, mi hanno beccato. E crolla sull'asfalto di via Mascarella. Bologna è come lei, come la mia Francesca. Affascinante e crudele. Ma non esiste un giallo del Dams. Anche se sembra di assistere a un serial televisivo, gli studenti non sono impressionati. Studiano le tecniche della comunicazione, i titoli non fanno loro effetto. Ma in alcune famiglie sono preoccupati. Qualche amico l'abbiamo perso di vista, non ha potuto iscriversi quest'anno, perché i genitori pensano che il Dams sia davvero un ambiente frequentato da assassini. Francesca somigliava a Siuxi, la cantante dei Banshees, bellissima. Avrei sempre voluto dipingerla, Francesca. Il colore, il pallore della sua pelle, il nero bruciante dei suoi capelli. Ora penso solo a lei, a Francesca, colpita al collo da una pugnalata mortale. E quell'impronta del suo sangue sull'interruttore della luce. Mi sento ripetere, perché non lo dici a tutti, Francesco, che non sei stato tu, che quelle 47 coltellate non puoi averle inferte tu alla donna che amavi, alla critica d'arte che ti aveva creato. Ma non mi ascolterebbero, è tutto così confuso. Colpa della Bianca, che dopo averla provata non puoi più farne a meno. Ci ho provato a smettere, ci abbiamo provato. Quel frate, su all'osservanza, dice che non smetterà di tentare di curare quelli come me, anche se si racconta che certi tizi del pilastro l'hanno minacciato. Lui mi ha portato tra i calanchi della badessa, dove un tempo sgorgavano le sette fonti. Abbiamo camminato per un giorno intero e al tramonto ci siamo fermati di fronte alle luci della città per contemplare il silenzio. Ma nella mia testa c'era solo chiasso e una voce che non smetteva di chiamarmi. Ero esausto, ho mormorato parole rabbiose. Le sette fonti le hanno interrate da un pezzo. Sono scappato appena ne ho avuto l'occasione, per tornare alla mia droga, lei, Francesca. E oggi che non c'è più, sono scappato di nuovo. Credevo che a Bologna sarebbe stato tutto diverso. Francesca diceva che avrebbe convinto un gallerista ad allestire una mostra con i miei quadri. E dire che a Pescara non mi si filava nessuno. All'inaugurazione lei avrebbe tirato fuori la sua Polaroid e avrebbe scattato foto da appendere sulla bacheca dell'Alma Mater. L'ho salutata per l'ultima volta quel maledetto venerdì sera. Poi ho visto le solite facce che incontravo ogni fine settimana in stazione. Tutti quanti hanno notato che ero tranquillo, che i miei vestiti erano puliti. Quella sera qualcuno ha spento la luce nell'appartamento di Via del Riccio, quello di Francesca, con le mani sporche del sangue. Di Francesca. Francesca che indossava quel giubbotto nonostante il caldo fosse soffocante. Francesca che diceva che io somigliavo a lei, bambina, zingaresca e scalza sulla spiaggia di Forte dei Marmi. Francesca e il suo orologio da polso che ha smesso di contare il tempo quando il suo polso si è fermato. E oggi che Francesca non c'è più, un altro sogno si è sgretolato all'ombra distorta delle due torri. Accendo una paglia, spero solo di bruciare in fretta. Barbara Baraldi in libreria con La bambola dagli occhi di ghiaccio, Castelvecchi editore, 246 pagine, 16 euro. Per riascoltare e scaricare tutte le storiacce del sabato e della domenica, www.radio24.it, alla voce podcast. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce e sul blog. Ciao a tutti, al prossimo weekend!